Posto guida. Lo spazio a disposizione è più che sufficiente, ma la disposizione del sedile è molto avanzata e l'assenza di regolazioni dell'inclinazione e dell'altezza del volante non permettono a tutti di trovare una posizione soddisfacente. 2,5 stelle. Motore. Il generoso 4 cilindri di 3 litri turbo diesel dispone di una buona potenza, 177 cavalli, e soprattutto di coppia in abbondanza. Unico limite, la ruvidezza e la rumorosità di funzionamento. 4 stelle. Comfort. La campagnola è un veicolo scomodo per costituzione. Sospensioni rigide, pedale della frizione pesante, ben 19 kg, e rumorosità diffusa imputabile al rotolamento dei pneumatici, alla trasmissione e all'aerodinamica. 1,5 stelle. In fuoristrada. È stata progettata per le impervie strade militari di montagna, gli sterrati sconnessi e le fangaie di campagna. Può affrontare qualsiasi ostacolo con disinvoltura, sfruttando le ridotte e il bloccaggio del differenziale posteriore. 4,5 stelle.